L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Chi sa o si ricorda dai tempi della scuola che cos'è una sineddoche? Allora, la sineddoche è una figura retorica nella quale, in senso figurato, cerco di leggere la definizione dal vocabolario, si utilizza la parte per il tutto, per esempio si parla di vela per identificare la nave oppure la ruota per parlare della macchina. Allora, ho pensato alla sineddoche in questi giorni seguendo alcune delle notizie, delle storie più importanti in primo piano, per esempio pensando alla casa, che potrebbe essere una metafora perfetta, una sineddoche perfetta per rappresentare il tutto, cioè il nostro paese, la nostra amata Italia. In fondo, per una questione di case, si è aperta una delle più importanti, gigantesche inchieste degli ultimi anni, ovvero quella sulla cricca Balducci Anemone. Sulla casa si è consumato un piccolo psicodramma alla Camera martedì, dove la maggioranza è stata battuta nel voto sul decreto antidemolizioni, che tra l'altro era già approvato al Senato, che prevedeva la sospensione delle demolizioni per abusivismo in Campania. Ma per esempio anche le province possono essere una parte che spiega il tutto, cioè una parte che spiega come vanno le cose nel nostro paese, in Italia, e mi riferisco al dibattito sulla loro soppressione che viene rilanciato ormai in continuazione, ma alla fine non si sa mai, anzi lo si sa ma non nessuno lo vuole dire apertamente, queste province non vengono mai soppresse definitivamente. E infine, qui c'è la domanda più scottante, vi voglio chiedere se gli evasori, secondo voi, sono una parte che rappresenta l'intero popolo italiano oppure no. Vi lascio naturalmente riflettere su questa domanda amletica. Sentite intanto questo servizio di Raffaella Calandra in onda nel GR delle 8 di mercoledì, è l'amara copertina di oggi dell'ottavo giorno. Sei società di calcio, marchi della moda e del design, colossi della telefonia o piccole realtà imprenditoriali. Era ampio e variegato il portafogli clienti del fiduciario svizzero Giuseppe Guastalla. Tutti andavano da lui e a tutti lui, attraverso la sua doge, riusciva ad assicurare un servizio personalizzato di società estere, false fatture e veri spalloni per pagare meno tasse. 280 imprese per una presunta evasione da 133 milioni sono state perquisite in tutta Italia dalla Guardia di Finanza. Udinese, Catania, Empoli, Ascoli, Regina e Cesena, le società calcistiche accusate di aver emesso false fatture per imprese olandesi, austriache o ungheresi. La causale ufficiale era la ricerca di nuovi giocatori. Nei PC dello svizzero, già arrestato nell'inchiesta Italis, spuntano anche i nomi di Fastweb ed Eutelia, accusati di aver nascosto al fisco 1,5 milioni, o ancora Gilli, società di Giulia Ligresti, e Frau, e sono i rappresentanti legali o i firmatari di quelle dichiarazioni di redditi, i 302 indagati, compresa una società dell'attore porno Rocco Siffredi. E mentre c'è chi evade, lo continua a fare con tanti soldi, la Vigilanza Rai in questi giorni ha deciso all'unanimità, tutti hanno votato a favore, di mettere nero su bianco nei titoli di coda i compensi dei conduttori Rai. Insomma, io da liberale e liberista convinto, sinceramente, chiamo questo guardare dal buco della serratura. Non sono affatto convinto di questo voyeurismo che vedremo nei titoli di coda dei programmi in prima serata, che sicuramente registreranno un'impennata nello share. Più avanti invece, scavando tra le notizie della settimana dal 5 all'11 di giugno, parleremo di pensioni, del Papa, di Gaza, terremo in sottofondo lo sport perché ormai siamo immersi dalla testa ai piedi nei mondiali di calcio in Sudafrica, finalmente sono cominciati. L'ottavo giorno. E veniamo al tema più caldo, scottante di questa settimana, ovvero il voto che si è consumato in Senato sul disegno di legge sulle intercettazioni. È stata sicuramente una settimana vivace, diciamo così, utilizzo un eufemismo. Abbiamo visto accuse, polemiche, l'aula occupata per una notte intera, sit-in di protesta. Sicuramente siamo arrivati al punto zero, direi, nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Cominciamo dalla stretta cronaca. Giovedì c'è stato il voto in Senato e questi sono appunto i resoconti di Elisabetta Fiorito. Il governo accelera, la fiducia passa ma l'opposizione insorge. Il disegno di legge sulle intercettazioni ottiene il voto del Senato in una seduta a dir poco turbolenta, malgrado il parere del ministro della giustizia Angelino Alfano. Consentiamo l'uso delle intercettazioni impedendone l'abuso. Questo sereno voto di fiducia, proprio perché si è determinata questa convergenza, rappresenta la realizzazione di un punto del programma. La seduta inizia con l'espulsione dei senatori dell'Italia dei Valori, colpevoli di aver occupato l'aula dalla notte prima, il presidente di Palazzo Madama, Renato Schifani. La presidenza a questo punto è costretta ad espellere dall'aula i senatori che indebitamente occupano i banchi del governo. Le dichiarazioni di voto iniziano quindi con mezz'ora di ritardo e a quel punto il Partito Democratico annuncia che uscirà dall'aula. Anna Finocchiaro. Il mio gruppo non parteciperà al voto di fiducia, perché noi vogliamo che risulti il fatto che da qui comincia il massacro della libertà. La fiducia passa con 164 sì, PDL e Lega e 25 no, IDV, UDC e Radicali. Il Partito Democratico si rifiuta di votare. Sulle intercettazioni mi sento dovere di fare una brevissima precisazione, perché io non ho mai coltivato come giornalista il mito della neutralità, dell'essere super partes, e sinceramente non riesco a rimanere indifferente ed equidistante da questa legge, sulla quale nutro molti dubbi e non sono sicuramente l'unico. Non arrivo certo a parlare di fascismo, dittatura, morte della libertà, parole roboanti ma che secondo me non aiutano il dibattito, però insomma rimango colpito da alcune cose di questa legge, anche se poi ieri Giuliano Ferrara, per esempio, sul Foglio, con il suo italiano come sempre sublime, ammaliante, ha detto che la legge difende il pudore di questo paese nel quale ormai trionfa la sputtanopoli. Però per esempio mi ha invece molto colpito in prima pagina su Sole 24 Ore, quindi non in un giornalino carbonaro di periferia, quello che ha scritto un osservatore sempre molto equilibrato, saggio, come Stefano Folli, che ha parlato di provvedimento nato male e cresciuto sbilenco al punto da risultare faraginoso e contraddittorio, forse incostituzionale in qualche sua parte. Quindi parole molto dure, molto forti di Stefano Folli. Ho fatto questa premessa forse un po' lunga, me ne scuso. Adesso do la parola a Donatella Stasio, che da ben 2 anni segue il tortuoso iter della legge in Parlamento. Buongiorno Donatella. Buongiorno. Allora Donatella, adesso bramo per sapere naturalmente anche la tua opinione sulla legge, forse saremo un po' sulla stessa linea, insomma pazienza per chi ama la par condicio, però prima vorrei brevemente che tu riassumessi, proprio a beneficio dei nostri ascoltatori, i punti salienti del disegno di legge approvato in Senato. Sì, sinteticamente si può dividere in due parti questo provvedimento. La prima riguarda la stampa, i divieti di pubblicazione, le relative sanzioni, e poi la seconda parte riguarda le intercettazioni, le indagini. Per quanto riguarda la stampa, appunto viene introdotto questo divieto di pubblicazione delle intercettazioni, un divieto assoluto, e quindi in qualunque forma sarà impossibile dar conto dei contenuti delle intercettazioni fino alla fine delle indagini preliminari, questo anche quando è caduto il segreto, quando anche le intercettazioni siano rilevanti, abbiano una rilevanza pubblica, riguardino strettamente le indagini. Per gli altri atti di indagine sarà possibile soltanto la pubblicazione per riassunto, e questa è stata, diciamo, una parte fortunatamente recuperata. Le sanzioni comunque per i giornalisti vanno dall'arresto all'ammenda, ma quello che colpisce sono soprattutto le sanzioni nei confronti degli editori, che sono effettivamente un fatto assolutamente nuovo e preoccupante, al di là dell'entità della sanzione, perché implicano che in qualche modo l'editore vigili e controlli che cosa si pubblica su un giornale, e questo ovviamente è un'anomalia nel sistema dell'informazione. Quindi ci avviamo ad un editore quasi fisicamente presente a redazione, insomma, a controllare cosa viene pubblicato. Sì. Teoricamente sì, infatti non a caso la stessa federazione degli editori ha parlato di un provvedimento fortemente intimidatorio. Questo è un punto molto, molto grave. La seconda parte, che riguarda le intercettazioni, è appunto in qualche modo, anzi sicuramente, intacca, diciamo, l'efficienza delle indagini. Le intercettazioni, che oggi sostanzialmente possono durare per tutta la durata delle indagini, come altri strumenti peraltro a cui si può fare ricorso, avranno invece una durata limitata massima di 75 giorni, prorogabile di 3 giorni in 3 giorni in casi eccezionali da parte del pubblico ministero, che dovrà chiedere la convalida della proroga al tribunale distrettuale collegiale, che non entra subito diciamo in vigore, perché oggi è il GIP che convalida, ma appunto tra un anno sarà il tribunale collegiale, per diciamo i non addetti ai lavori questo significa è una complicazione in più, perché vuol dire che gli atti dovranno essere trasferiti in molti casi in altre città. Ovviamente questo significa non tutelare anche quella privacy che si dice di voler tutelare, perché è ovvio che quando si spostano carte ci sono poi mille occasioni, perché diciamo i contenuti delle carte vie di fuga, esattamente. Ecco, tra l'altro qualcuno su questo dice che la legge potrebbe essere aggirata facilmente pubblicando su internet, che è un universo che non viene colpito dal DDL. Beh, no, anche i siti sono colpiti, nel senso che non è che non si possa pubblicare, dipende appunto, su internet sì, certo, però i siti dei giornali hanno, come dire, lo stesso trattamento dei giornali. Si parlava di blog, cose più indefinite. Di blog, sì, certo, ci sono delle forme di aggiramento e molte ce ne saranno, e il problema, ovviamente, come poi dicevi tu o lasciavi intendere tu all'inizio, è se si possa effettivamente accettare che in una democrazia liberale si debba ricorrere appunto a dei sotterfugi, degli aggiramenti del genere per poter garantire un diritto fondamentale, che è il diritto all'informazione. Ecco, tra l'altro ieri sui giornali abbiamo visto anche delle proteste, alcune plateali che mi hanno anche sinceramente colpito. Repubblica ha fatto una pagina bianca, La Stampa per esempio ha lasciato in bianco le rubriche di due sue firme eccellenti come Massimo Gramellini e La Iena Barenghi. Poi ci sono stati editoriali sferzanti sul Corriere della Sera, sul Messaggero, sul nostro Sole 24 Ore. Giornalisti e magistrati sembrano convergere in una protesta che dovrebbe arrivare ad un mega sciopero, insomma, all'inizio di luglio, quando poi la legge dovrebbe arrivare alla Camera. E qui alla Camera, dove si è defini che insomma è un po' eterodosso rispetto al pensiero di Berlusconi, che cosa ti aspetti? Cioè Berlusconi Fini potrà cambiare qualcosa, potrà influire sul percorso finale di questa legge? Ma adesso è un po' prematuro dirlo. Sicuramente tra i finiani ci sono molti malumori, e lo stesso Fini, sebbene abbia accettato pubblicamente il compromesso appunto nelle fasi finali dell'esame del Senato, ha anche detto che appunto il ricorso alla fiducia non era, come dire, uno strumento adeguato diciamo ad un provvedimento come questo, che è un provvedimento delicato, che tra l'altro tocca i temi anche delle libertà fondamentali. Ma al di là della fiducia, quindi anche questo poi bisognerà vedere se effettivamente alla Camera, come si dice, verrà messa la terza fiducia su questo provvedimento, le perplessità di molti finiani riguardano anche alcuni aspetti di questo provvedimento. Bisognerà vedere da qui a luglio, alla fine di luglio, quando il provvedimento verosimilmente arriverà in aula, anche il quadro politico dei rapporti tra Fini e Berlusconi, con in mezzo la Lega, perché poi c'è il problema appunto delle riforme, anche perché la Lega in questa vicenda ha avuto una posizione un po' defilata, cioè di appoggio, però un po' defilata, e comunque Bossi non ha nascosto insomma i propri timori per eventuali ricadute negative che l'approvazione di un provvedimento contestato come questo potrebbe avere appunto sulle riforme che gli sono più care, il federalismo. Poi naturalmente non dimentichiamo che la maggioranza le ha prese anche con il complicato processo della manovra correttiva, insomma lì ci sono, esatto, in ballo altri interessi forse ancora più importanti di quelli insomma del DDL sulle intercettazioni. Poi c'è un terzo attore, o un quarto, adesso ho perso il conto, da tenere in considerazione, che è Napolitano, il Presidente della Repubblica, che alla fine della giostra dovrà comunque firmare confermare o meno la legge, sulla quale già qualcuno mette in piedi dei dubbi di costituzionalità. Sulla Costituzione si è pronunciato in questi giorni molto caldi e molto infuocati direttamente Berlusconi, che ha proseguito poi i suoi affondi anche contro i magistrati. Sentiamo che cosa ha detto mercoledì in questo servizio di Alessandra Schepisi. È un inferno, è datata e catto comunista. Questa volta contro la Costituzione Berlusconi non si risparmia. Non è possibile, dice agli artigiani riuniti in assemblea che più volte lo applaudono, governare con questo sistema di pesi e contrappesi. Non è che manchino le buone intenzioni, è che abbiamo un'architettura istituzionale che rende difficilissimo trasformare progetti in legge compiute e operanti dello Stato. Dura la risposta dell'opposizione, per il PD sono parole irresponsabili, e il segretario Bersani invia al Premier un suggerimento. Tu hai giurato sulla Costituzione, se non ti piace vai a casa. Okay. Reagisce anche l'Italia dei Valori. Solo un modello fascista può fare a meno di Costituzione e Parlamento. Non credo sia un caso che Berlusconi abbia parlato di Costituzione proprio nei giorni in cui si votava il DDL sulle intercettazioni, che alla fine dovrà essere firmato meno da Napolitano. E su questo ti chiedo in breve, Donatella, proprio un flash: Napolitano alla fine firmerà o meno la legge? E poi naturalmente dobbiamo aspettare anche la forma che prenderà questa legge. E soprattutto lo spettro di arrivare poi alla Corte Costituzionale per dei dubbi di costituzionalità ci sono? A quest'ultima domanda la risposta è sì, senza esitazioni. Quanto a Napolitano è difficile anticipare una valutazione, però ecco, io volevo sottolineare il passaggio del discorso di Berlusconi sui pesi e i contrappesi. La stampa e la magistratura sono sostanzialmente dei contrappesi, sono dei poteri di controllo, questa legge, così come è stata confezionata fino ad oggi, in realtà limita fortemente questi poteri di controllo. Questo è un discorso di carattere generale che si inserisce perfettamente all'interno della nostra Costituzione, e toccare questi equilibri effettivamente è molto molto pericoloso. Quindi io penso che il Presidente della Repubblica valuterà con grandissima attenzione la portata del provvedimento, proprio avendo riguardo a questi equilibri. L'ottavo giorno. Abbiamo chiuso prima della pubblicità un dossier davvero bollente, quello delle intercettazioni. Adesso ne apriamo un altro che scotta quasi allo stesso modo, insomma, perché stiamo per parlare di pensioni. Tutto sommato, se uno ha letto bene i giornali di questi giorni o ha ascoltato giornali radio o telegiornali, insomma, nei titoli d'apertura le pensioni hanno fatto una discreta concorrenza proprio alle intercettazioni. Insomma, l'argomento è molto sentito. Sapete che è in arrivo questo aumento dell'età pensionabile per le donne fino a 65 anni nella pubblica amministrazione. L'Europa d'altronde ha dato una spinta non proprio benevola nei nostri confronti perché andasse in porto questa novità, che è arrivata ufficialmente, è stata sancita dal Consiglio dei Ministri di giovedì. Sentiamo su questo la scheda di Alessandra Schepisi. Fino al 31 dicembre del 2011 le lavoratrici statali andranno in pensione a 61 anni, dal 1 gennaio 2012 a 65. È così che il governo italiano si adegua alle richieste di Bruxelles ed equipara l'età per accedere alla pensione di vecchiaia tra uomini e donne nel pubblico impiego. Ma l'impatto sarà modesto, assicura il ministro del welfare Sacconi. Si parla di una platea stimata in circa 25.000 donne da qui al 2019. Una misura che non serve a fare cassa, assicura il ministro per la funzione pubblica Brunetta. I risparmi saranno 50 milioni nel 2012 e 150 nel 2013. E verranno destinati a servizi per l'infanzia e per l'assistenza ai non autosufficienti. Ma la misura viene bocciata dall'opposizione. Per il segretario del PD Bersani è insensata e tagliata con l'accetta, sul piede di guerra ai sindacati, secondo i quali è una forzatura di cui non si comprendono i vantaggi reali. Ad ascoltare al mio fianco il servizio di Alessandra Schepisi c'era e c'è tuttora fortunatamente Davide Colombo della redazione romana del Sole 24 Ore. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti, buongiorno. Davide ha seguito passo passo l'evolversi di questa vicenda, che non è certo conclusa, delle pensioni. Ha scritto praticamente tutti i giorni questa settimana sul Sole. Hai fatto anche un'interessante simulazione nell'edizione di giovedì, se non sbaglio, in cui hai calcolato la pensione di una donna che va oggi in pensione a 60 anni nella pubblica amministrazione e nel privato, e che cosa invece succederà in proiezione tra 5 anni. Adesso vorrei vedere anche le differenze, perché ci sono differenze di trattamento tra il pubblico e il privato, non tanto oggi ma soprattutto per il domani, però vorrei partire con delle domande basiche, un po' elementari, che però secondo me sono utili per fare chiarezza. Certo. Per esempio, perché l'Europa ha chiesto questo adeguamento dell'età pensionabile per le donne all'Italia in maniera, direi, piuttosto pressante? Tutto quanto parte da una sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo che ha ravvisato nel rapporto di lavoro pubblico, quindi non tanto dal punto di vista del trattamento previdenziale, ma proprio dal punto di vista contrattualistico, una discriminazione tra sessi. Il governo l'anno scorso aveva adottato un provvedimento per fare un adeguamento che però era spalmato dal 2010 al 2018, un anno ogni due di innalzamento per arrivare ad un allineamento al 2018. La Corte ha ritenuto che quel tempo non fosse congruo, perché durante quel percorso la discriminazione continuava ad esistere. Quindi ha chiesto un'impennata più. Ha chiesto bisogna immediatamente superare la discriminazione. Ora c'è tutto dietro questo confronto con Bruxelles e con l'interpretazione della sentenza del Lussemburgo, materia per disquisizioni giuridiche molto vaste, anche politiche se si vuole. La realtà è che il governo, secondo molti, ha colto l'occasione per chiudere velocemente questa partita. Come dire, ce l'ha chiesto l'Europa, non possiamo dire anche di no. Anche perché posta così, ce l'ha chiesto l'Europa, non possiamo dire di no, la facciamo sapendo che riguarda una platea molto, molto piccola, effettivamente, perché chiudiamo una questione che davvero, come ha detto ieri Sacconi, non ha dal punto di vista reale nulla di previdenziale, ha qualcosa a che fare con i rapporti contrattuali. Allora diciamo che la leviamo. Infatti, non a caso, anche nel privato le donne vanno in pensione di vecchiaia a 60 anni e gli uomini a 65. Però quello è un regime pensionistico. L'Unione Europea, secondo il trattato, non può intervenire sull'età di pensionamento dei regimi pensionistici. È intervenuto su questo perché invece lo ha visto dal punto di vista del rapporto contrattualistico. Quindi possiamo dire che Sacconi, il nostro ministro del welfare, quando lunedì è andato a Bruxelles a parlare di questo in sede europea, tutto sommato ha avuto poco da discutere, perché era abbastanza d'accordo con la linea tracciata da Bruxelles. D'accordo, diciamo. Cerchiamo che di essere un po' maliziosi. Diciamo che non ha fatto male al governo questa cosa, c'era una lettera di messa in mora. Diciamo che l'alternativa era poi vedere tradotta questa lettera di messa in mora nell'avvio di quella procedura che inevitabilmente avrebbe portato alle sanzioni, che sono appunto state anche quantificate. C'era un'ipotesi di massima di 714.000 euro al giorno per ogni giorno dalla sentenza in poi. Beh, quindi bei soldi. Sono soldi, sì, sono soldi. Allora, la legge è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, adesso dovrà arrivare in aula. Presupponiamo naturalmente che qualche aggiustamento ci sarà, perché comunque le parti sociali, soprattutto la CGIL, hanno mostrato dei dubbi, delle perplessità, anzi annunciano iniziative importanti di sciopero, chiedevano una manovra appunto meno dirompente e più spalmata negli anni. Però diamo per buono l'impianto generale di quello che è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Cerchiamo di capire quante persone vengono coinvolte nella novità e quanti soldi poi costa, e soprattutto far risparmiare allo Stato questa iniziativa. Allora, le persone, la platea è stata proprio dettagliata ieri, giovedì, chiedo scusa, nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri da Sacconi. Sono 25.000 donne circa dal 2010 al 2019. Sono appunto donne che in quel periodo lì maturano il requisito, matureranno il requisito per andare con la pensione vecchiaia, ipotizzando che non decidano di andare con la pensione di anzianità, cioè se hanno fatto 35 anni di contributi, naturalmente possono andare in pensione da 59, 60, 61 anni fino al 2013, quando dovranno avere 62 anni con 35 anni di contributi, e quella è la pensione di anzianità che non le riguarda, esattamente come nel settore privato. Quindi la platea è 25.000 donne. Da qui al 2019, abbiamo detto, i risparmi sono quelli quantificati, sono 1.450 milioni, anche questi da qui a regime, cioè da qui al 2017-2018. Naturalmente non sono risparmi tipicamente di intervento previdenziale, pure questo, è stato già assicurato che finiranno nel fondo strategico per l'economia, che è stato istituito l'anno scorso alla Presidenza del Consiglio per essere utilizzati per finanziare politiche di welfare familiare, asili nido, fondi per la non autosufficienza e anche per la conciliazione lavoro-famiglia, come ha detto la ministra Carfagna. Speriamo seguano questa strada, perché a volte i soldi promessi per certi campi poi subiscono delle variazioni nel tempo. Tra l'altro, le donne del comparto statale, per una strana fatale coincidenza di iniziative del governo, oltre a subire questa piccola tagliola, insomma, chiamiamola così, sull'innalzamento dell'età pensionabile, subiranno anche il blocco degli stipendi per i prossimi anni, e questo fa parte di tutto il meccanismo complesso della manovra. Quindi, insomma, da un certo punto di vista, chi è donna e lavora nello statale adesso e ha questa età che oscilla tra i 61 e i 65 è proprio sfortunata in questi anni. Sì, diciamo che qui c'è un concentrarsi di misure che toccano questo settore del pubblico impiego. Il blocco del contratto per il triennio 2010-2013 vale in sé circa un mancato adeguamento della retribuzione del 4,5%. Bisogna ricordare, scusa se ti interrompo, che l'ARAN, l'Agenzia della Rappresentanza della Pubblica Amministrazione, in questi giorni, e non credo sia casuale che sia uscito in questi giorni il dato, ha anche ricordato che però dal 2000 a oggi nel pubblico impiego le retribuzioni sono aumentate di più rispetto al privato. Lo scarto non è indifferente, perché si va da un più 39,7% nel pubblico impiego a un più 25,7% nel privato, quindi in questo momento il pubblico sta un po' restituendo quello che ha avuto in più negli anni precedenti. Sì, diciamo che naturalmente quando si toccano i soldi è sempre poco simpatico, però stiamo parlando di un settore che è di fatto non sul mercato, come dice il ministro Brunetta, quindi qui mal che vada devi andare a lavorare. Il rischio di rimanere in cassa integrazione o di perdere il posto di lavoro qui non c'è. Il sacrificio è comunque un sacrificio, arriva su un settore che ha avuto un andamento retributivo anche dovuto a fattori statistici. In realtà c'è in quel dato lì dell'ARAN c'è dentro anche un effetto trascinamento di rinnovi che a volte sono arrivati non puntualmente e quindi hanno trascinato aumenti di anni precedenti. Diciamo, nel caso di specie, il blocco del triennio 10-13 vale circa il 4,5%, oltre al mancato soldo in più in busta paga, quel 4,5% vale come base di calcolo poi per le pensioni, no? Perché le pensioni dei dipendenti pubblici è calcolata anche sull'ultima retribuzione, quindi in qualche modo avrà effetto su il calcolo della pensione finale. Pochi secondi, vorrei sapere un tuo parere proprio aperto, insomma, senza giri di parole, su questa iniziativa del governo. Ti soddisfa? Poteva essere fatta in modo diverso, meno traumatico, anche se riguarda una platea, come abbiamo ricordato, piuttosto piccola? Dunque, diciamo che è un intervento non di politica previdenziale, perché risponde a una sentenza della Corte del Lussemburgo che chiede un allineamento di requisiti dal punto di vista contrattualistico tra uomini e donne nel settore pubblico. Un intervento di politica previdenziale vero, strutturale, che poteva essere fatto partendo da questa occasione, avrebbe potuto avere una portata ben più ampia, avrebbe potuto toccare il settore privato. Sono molte le cose che dovranno essere fatte, se non vengono fatte quest'anno si faranno nel prossimo biennio, perché nel prossimo biennio, diciamo che da qui al 2013 succedono molte cose per le pensioni pubbliche e per le pensioni di tutti. Nel 2013 va a regime anche il privato, secondo te, si adeguerà? Nel 2013 va a regime l'ultimo scalino per la pensione di anzianità. Nessuno potrà andare in pensione di anzianità con meno di 62 anni e 35 di contributi. Da lì in avanti si apre uno scenario, secondo molti, nel quale bisognerebbe recuperare una flessibilità per la pensione in uscita, cioè reintrodurre il vecchio sistema che era previsto nella legge di riforma del 1995, la riforma Dini, che prevede appunto un'uscita flessibile da 62, 67, 68 anni a scelta. Se scegli di posticipare, naturalmente il calcolo contributivo ti premia sull'assegno previdenziale che avrai. Se esci prima perdi qualcosa, un 3% all'anno circa è stato calcolato. Davide Colombo, grazie, ci ritroveremo, magari parleremo la prossima volta delle pensioni che forse non vedranno mai i giovani che adesso entrano nel mondo del lavoro. Tra l'altro ricordiamo che l'Italia forse è il paese europeo che ha fatto più interventi sulle pensioni da 15-20 anni a questa la parte. La manutenzione ordinaria, diciamo, è quasi annuale. Insomma, e la riforma Dini è una riforma colossale, insomma, che piaccia o meno, ma credo che insomma, gli effetti positivi si cominciano a vedere da adesso in avanti. L'ottavo giorno. Entriamo in studio dopo le notizie dal traffico, abbiamo parlato di pensioni, restiamo però ancorati alla questione economica perché c'è molto da dire, ci sarebbe molto da dire su questo fronte. Per esempio prosegue senza sosta il lavorio sulle modifiche alla manovra da 24 miliardi presentata poche settimane fa da Tremonti, si arriverà sicuramente ad un lungo lavoro di Lima e di Cesello, insomma questione molto diversa e storia molto diversa in Italia rispetto alla Germania, che per esempio in questi giorni ha presentato una manovra monster da 80 miliardi, l'ha illustrata la Merkel, una manovra di grandi tagli, di grandi sacrifici, che però fa rientrare molto rapidamente il deficit tedesco. D'altra parte lo ha spiegato molto bene sul Sole 24 Ore di giovedì Luigi Zingales, quella della Merkel è una manovra coraggiosa ma anche profondamente anti-europeista, perché ha scritto Zingales, i tedeschi hanno deciso unilateralmente di esportare tagli e riduzioni dei prezzi e lo fanno perché sanno che i partner europei non possono seguirli su questa strada, quindi sicuramente la Germania farà scuola, ma nel frattempo ha creato anche allarme soprattutto ai paesi del sud Europa. Poi un altro tema molto in voga in questi giorni, in queste settimane, è il taglio agli stipendi, ai tetti degli stipendi, soprattutto di figure pubbliche, argomento soprattutto di moda sulla bocca del ministro Calderoli, che prima ha polemizzato con gli ingaggi altissimi del calcio, insomma ci si è infilati poi in una polemica sinceramente piuttosto stucchevole. Tra l'altro è arrivata una risposta in diretta degli azzurri, dei giocatori convocati da Lippi, che hanno deciso che devolveranno parte del premio in caso di vittoria ai mondiali per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Insomma, questo vorrà dire che l'Italia avrà vinto di nuovo i mondiali. Francamente sono in pochi a credere in questo e anch'io mi associo al pessimismo che precede la spedizione azzurra in Sudafrica. Invece Calderoli è riuscito a imporre il taglio agli stipendi in Rai, misura adottata nel Consiglio dei Ministri di giovedì, e anche qui si sono aperte delle polemiche. Veniamo invece alla cronaca, perché dobbiamo ritornare a lunedì ad una storia che ha colpito tutti, ha emozionato, ha commosso tutta l'Italia. Questo accade puntualmente quando c'è di mezzo un bambino ed è naturalmente giusto che sia così. Torniamo allora lunedì a Nocera con questo servizio di Paolo Picone. Era da poco scoccata la mezzanotte quando è terminata l'angoscia di Fabio Cioffi, maresciallo dell'esercito, e della moglie Annalisa Fortunato Ragioniera. Il loro piccolino, rapito da una donna appena poche ore dalla nascita nell'ospedale di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, è stato ritrovato. L'uomo ha fatto una lunga corsa, appena presa la notizia, dalla stanza in cui era ricoverata la moglie fino all'uscita dell'ospedale, per poi tornare indietro inseguendo un'auto delle forze dell'ordine, pensando che a bordo vi fosse il bambino. Poi è tornato nuovamente in ospedale, dove all'ingresso del pronto soccorso una folla di amici, parenti, agenti e sanitari era in attesa. Il neonato, 20 minuti dopo il ritrovamento, è stato riportato con un'ambulanza nello stesso ospedale. In manette la rapitrice Narita Buonocore, di 42 anni, infermiera in servizio all'ospedale Cardarelli di Napoli, che vive proprio a Nocera Inferiore, poco distante dal luogo in cui ha rapito il neonato dei Cioffi. Alla donna le forze dell'ordine sono risaliti grazie a una testimonianza che ha consentito agli investigatori poi di mostrare la foto della rapitrice alla madre del piccolo Luca, che l'ha immediatamente riconosciuta. Gli uomini della squadra mobile di Salerno e dello SCO hanno fatto irruzione nel suo appartamento al settimo piano del civico 10 di via Arturo Petrosini e hanno così salvato il bambino. Arrestata per concorso nel reato anche la figlia ventenne della rapitrice. L'infermiera, che viveva insieme alle sue due figlie, è separata e avrebbe problemi psicologici. Aveva preso un periodo di congedo di 10 giorni dal suo lavoro al pronto soccorso del Cardarelli. Adesso voglio aprire una breve parentesi sul Medio Oriente, dove pesa ancora tutto quello che è successo la settimana scorsa, l'assalto dei soldati israeliani ad una nave di aiuti e pacifisti verso Gaza, anche se Israele si difende dicendo che non c'erano solo aiuti e solo pacifisti nella nave colpita a morte dai soldati israeliani. In questi giorni tra l'altro abbiamo visto delle foto che confermano la presenza sulla nave di persone pronte comunque in ogni modo a sfidare i soldati che si stavano calando dall'alto, e ci sono state anche delle polemiche nei confronti della Reuters, perché avrebbe tagliato delle foto in modo tale da non far vedere i coltelli in mano ai pacifisti. ma soprattutto su Gaza direi che è fondamentale, si è fatta sentire molto la voce del Papa di Benedetto XVI, che domenica da Cipro ha terminato insomma il suo viaggio parlando apertamente a Gaza, e lo ha fatto senza filtri, come invece purtroppo fanno molti paesi, molti istituti internazionali, a prescindere naturalmente da come la si veda su Gaza, su Hamas e su Israele. Sentiamo Paolo Panceri. Many families are taking the decision to move away, and it can be tempting for their pastors. Benedetto XVI, nell'ultimo giorno della visita a Cipro, invita ad abbattere le barriere, a dire no a egoismo, avidità e sfiducia verso gli altri, e indirizza un duro monito alle grandi potenze e a Israele sulla pace in Medio Oriente. In particolare, secondo il pontefice, l'occupazione israeliana è un'ingiustizia politica imposta ai palestinesi, che nessun cristiano può giustificare con pretese teologiche. È questo il senso dell'Instrumentum Laboris, il documento base del prossimo sinodo in Vaticano previsto dal 10 al 24 ottobre, presentato dal pontefice, nel quale si afferma inoltre che è necessario porre fine subito alle tensioni in Terra Santa, oppure si andrà incontro a un bagno di sangue. Secondo il Papa, i cristiani del Medio Oriente rappresentano una ricchezza non solo per la Chiesa, ma per il mondo democratico. Infine, secondo Benedetto XVI, occorre cercare la pace, ma anche denunciare la minaccia dell'estremismo islamico, in continua crescita in tutto il Medio Oriente. Chiudiamo questa puntata dell'ottavo giorno parlando di sport. Mi riservo di non parlare di mondiali, insomma di calcio. Siamo partiti ieri con la cerimonia inaugurale, con le prime partite. Se ne sta parlando giustamente in lungo e in largo anche qui a Radio 24. Io seguo praticamente tutte le partite, quindi non voglio però andare sopra anche ad altri colleghi molto più preparati di me. Invece, per parlare di sport, nella settimana peraltro dell'infortunio e dell'inizio del lungo decorso di Valentino Rossi nel suo incidente nel moto mondiale, è giusto celebrare la straordinaria impresa di Francesca Schiavone nel tennis. Sabato a Roland Garros ha infranto un tabù per lo sport italiano, non solo per il tennis femminile. Ci racconta tutto in tono epico Carlo Genta. Ha vinto Francesca Schiavone, si chiude così 7-2 il tiebreak del secondo set. Sono le 16:50 del 5 giugno del 2010. Un'italiana vince il Roland Garros per la prima volta nella storia del nostro tennis. Accompagnata da queste parole ai microfoni di Eurosport, Francesca entra nella storia del tennis e in quella del nostro sport. E poi tu fare labbra nella terra rossa più importante del mondo, ma che doveva avere il sapore dell'ambrosia. E poi scala le tribune come camminasse sulle nuvole per un altro tuffo, nel mare bollente del suo clan. Capita così di vivere un regalo, un pomeriggio che nessuno si aspettava. Di sicuro nemmeno i due scommettitori di numero in tutta Italia che si erano giocati rispettivamente 4 e 3 euro sulla Schiavone vincente Roland Garros e quotata 150. Al diavolo i bookmakers e i loro pronostici, qui stiamo parlando di gioia pura, spremuta sull'Italia che aspetta senza troppa fiducia i mondiali, da una donna di 30 anni che ne ha passate tante, ma che ieri aveva sulla faccia un'espressione già vista prima, addosso proprio a certi calciatori nell'82 e poi nel 2006. Quella di chi, fosse anche per un giorno solo, è il più forte di tutti. Abbiamo finito anche per oggi, ottavo giorno at radio24.it per chi ci vuole scrivere. Credo che ci siano molti argomenti su cui riflettere della puntata che abbiamo appena condotto in porto. Ringrazio in regia Alessandro Chiappini e come sempre vi do appuntamento a sabato prossimo poco dopo le 9. Per il resto della settimana siamo su podcast sul sito di Radio 24, www.radio24.it.